a calumare all'alga e undo, e rio per amare a te lo passe vieno. Lo passe vieno e lì, lo passe vieno e là, mi la fai una zinna della di mugiore mamma mia, nata ti la faccio io di mugiore mamma mia. Lo prima amore non se può scordare, che ti la lascia da via mallo. Fiamma al coro e lì, fiamma al coro e là, mi la fai una zinna della lì, muciore mamma ta, nata ti la faccio io lì, muciore mamma mia. Lucere l'occhi mia, che t'hai amato, venere core ti dai ho voluto. Dai ho voluto e lì, dai ho voluto e là, mi lo runi lo bacio nello lì, muciore mamma ta, nato te lo dogno. E all'immo giurre mamma mia.